La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci ancora insieme, amici, buon weekend da Franco D'Assisti, dalla Rosa Purpurea, dalla settimanale di cinema di Radio 24, in questa ultima settimana di uscite di novembre, dove ancora non si vedono i segni del Natale cinematografico. Si cominceranno a vedere dalla prossima settimana, dove comincerà la volata delle pellicole verso l'altissima stagione del cinema. Noi in questa puntata vi racconteremo, come sempre, molti film, molte novità tra quelle che escono al cinema, ma vogliamo cominciare dedicandoci all'appuntamento di cui abbiamo parlato e con cui abbiamo giocato per 3 settimane di seguito, l'appuntamento con la mostra sui 25 anni di storia della Pixar, l'azienda e il marchio che hanno cambiato il mondo dell'animazione, diciamo pure per sempre, perché dopo 3 settimane di giochi, di biglietti regalati per questa mostra che si svolge a Milano al Padiglione d'Arte Contemporanea, che è cominciata il 23 di novembre, andrà avanti fino a metà febbraio, e dopo tutto questo lancio siamo arrivati appunto al momento clou, cioè al momento in cui la mostra è aperta e al momento in cui abbiamo anche la possibilità di farvi ascoltare la voce del creatore della Pixar, John Lasseter. Lo sentiremo fra poco. Prima devo svelare i vincitori del game della scorsa settimana dedicato ai biglietti della mostra. Il film con cui abbiamo giocato la settimana scorsa era Gli Incredibili e il personaggio era straordinariamente riconosciuto, quello di Edna Mode, con la voce di Amanda Lear, questa stilista degli supereroi. Ebbene, i più veloci ad indovinare sono stati Reina Chiaralice di Saronno, Andrea Cortese di Cuneo e Gianluca Garibaldi di Cipressa, provincia di Imperia. Soprattutto per gli ultimi due si tratterà anche di un bel viaggio per venire a fare una giornata a Milano e per andare a vedere la mostra Pixar al Padiglione d'Arte Contemporanea. Sarà una coppia di biglietti per ognuno dei nostri ascoltatori. E allora, dicevamo, la mostra è aperta, c'è davvero tutto il mondo Pixar, ci sono tutti i disegni originali sui quali sono basate poi le animazioni, ci sono video installazioni, ci sono le sculture, un enorme Sully da Monsters & Co. alto 2 metri di peluche che farà impazzire grandi e piccoli. Insomma, c'è tutto per rivivere quello che sta dietro i film Pixar che abbiamo visto e vediamo al cinema, perché come racconta proprio John Lasseter ai nostri microfoni, uno pensa a Pixar e pensa al cinema, pensa all'animazione, forse non pensa immediatamente a tutto l'apparato artistico che ci sta dietro e che è proprio il tema di questa mostra. Alla Rosa Purpurea c'è John Lasseter. Buongiorno. Hi, I'm John Lasseter. Most people know of Pixar through our movies. Sono John Lasseter. La maggior parte delle persone conosce la Pixar attraverso i film che vede al cinema o in TV. Le storie, i personaggi e le scene. Ma quasi nessuno si rende conto che dietro a tutto questo esiste una quantità di arte tradizionale ai massimi livelli. Ci sono migliaia e migliaia di sculture e di disegni e dipinti, di vere e proprie opere d'arte che vengono realizzate proprio per questi film. Nessuno ha mai l'occasione di vederli. Questa mostra offre l'opportunità alla gente di vedere un'arte che non solo è così abbondante, ma anche meravigliosa. Spesso la gente, quando vede i nostri film, si chiede veramente se si tratti di arte vera e propria. Pensano che siano film per bambini. Quando vedranno questa mostra, si renderanno conto, al di là di ogni dubbio, che noi alla Pixar abbiamo tra gli artisti migliori al mondo, che lavorano con tutta la creatività e l'entusiasmo, che potrete constatare voi stessi, proprio perché sono animati da un sentimento di vero e proprio amore per il loro lavoro. Quindi, veramente, non vedo l'ora di condividere con la gente un nuovo punto di vista, una nuova comprensione e un nuovo apprezzamento per i film della Pixar. It's fantastic, so I really look forward for everybody seeing this art. You'll get a new appreciation for Pixar films. È certo che l'avvento della Pixar ha cambiato per sempre il mondo dell'animazione cinematografica. In che modo, secondo lui, e che cosa è successo nell'immaginario collettivo dopo l'arrivo dei personaggi Pixar? I think that's for me that's for someone else to say, not for me. Forse questa domanda non è esattamente quella adatta per me, però noi alla Pixar riteniamo che l'aspetto più importante di quello che facciamo sia la storia. D'altro canto amiamo anche la tecnologia, che ci ispira. C'è una forte collaborazione e interazione tra la tecnologia e l'arte. L'arte sfida la tecnologia e questa a sua volta ispira l'arte. È una sorta di circolo, come tra Yin e Yang. Noi portiamo la tecnologia all'estremo, ma non per puro amore della tecnologia in sé, proprio perché vogliamo intrattenere il nostro pubblico con una storia. Quindi usiamo la tecnologia al servizio di un racconto, di una storia. Ci deve sempre essere un buon equilibrio anche con la creatività, ed è in questo modo che noi abbiamo influenzato il mondo esterno. That's a big influence that we've had, you know, on others who work in this medium. Era John Lasseter alla Rosa Purpurea per raccontare, insomma, la filosofia del lavoro Pixar in occasione della mostra al PAC di Milano fino a metà febbraio, 25 anni della Pixar appunto in mostra. A questo punto noi invece ci dedichiamo ai contenuti tradizionali, diciamo così, della Rosa Purpurea, ai film, alle novità che arrivano in sala, ai temi che tratteremo in questa nostra ora di cinema. Titoli. Anche se è amore, non si vede. Tornano al cinema Ficarra e Picone, con una commedia degli equivoci imperniata sul classico schema lui, lei, l'altra. Alla Rosa Purpurea, l'intervista con Salvo Ficarra e Valentino Picone. Un padre, un figlio e un robot da combattimento. Viaggia sulle strade dell'America profonda Real Steel, il family movie Disney interpretato da Hugh Jackman e ambientato in un mondo prossimo Venturo, dove a boxare sono gli automi. Le Havre, un miracolo di film. 5 anni dopo il suo ultimo lavoro, torna Aki Kaurismäki. Il geniale autore finlandese firma un delicato e commovente apologo sulla fratellanza, ambientato nella Memphis d'Europa, la città normanna di Le Havre. È iniziato il Torino Film Festival, per il terzo anno diretto dal regista Gianni Amelio. Con lui parliamo dei temi del festival, dai red carpet d'autore al nuovo horror di Coppola, alla retrospettiva su Robert Altman. La Rosa Purpurea. Povero diavolo. Per fortuna aveva pagato. E questa è la filosofia con cui vive il protagonista di Miracolo a Le Havre. Siamo appunto a Le Havre, in Normandia, dove la Francia guarda in faccia l'Inghilterra, al di là della Manica. Un tempo indefinito, forse è il nostro oggi, forse è 50 anni fa, almeno stando agli arredi, ai vestiti, alle macchine. Le Havre è la città del blues, del soul, del rock and roll, è un po' la Memphis d'Europa. In questo sfondo si muove Marcel Marx, buon uomo di mezza età, era un clochard quando Arlette lo tolse dalla strada per farne suo marito. Sono rientrato. Sì, lo vedo. Hai lavorato molto bene oggi. Mentre io preparo la cena, tu hai tempo di andare a prendere un aperitivo. Però non spenderli tutti. Mi porto Laika con me, così potrà riportare il resto a casa. Marcel vive facendo il lustrascarpe, aspetta i clienti alla stazione quando scendono dal treno della sera, oppure li cerca fuori dai negozi di calzature del centro per avere clienti sicuri. Un giorno, mentre sta per azzannare il suo panino durante una meritata pausa dal lavoro lungo il canale che immette al porto di Le Havre, Marcel vede spuntare dall'acqua un ragazzino di colore. Siamo a Londra. È là che vuoi andare? E dall'altra parte, qui siamo a Le Havre, in Normandia. Non uscire, non aprire a nessuno. Sì, signore. E non chiamarmi signore. Sì, mio generale. E quello che avete sentito è qualche pezzo dei dialoghi fra Marcel e Idrissa. Questo è il nome del ragazzino sfuggito a una retata della polizia che ha scoperto un carico di clandestini nascosto dentro un container al porto. Marcel sfama il ragazzo, lo prende con sé, lo nasconde a casa sua e si mette alla ricerca della madre, che vive a Londra. Il microcosmo proletario del quartiere dei pescatori di Le Havre, dalla barista al fruttivendolo, si fanno amici, fanno quadrato attorno a Marcel e al suo piccolo grande segreto, proteggendolo dai vicini spioni e dalle indagini volutamente malaccurate del commissario Monet, uno sbirro dal cuore umano. Questo è un po' il discorso, il plot di questo nuovo film di Aki Kaurismäki, Miracolo a Le Havre, un film che ci riporta un regista amatissimo, esploso negli anni, alla fine degli anni Ottanta, con il film Leningrad Cowboys Go America, che fu un film che spaccò i festival e il mercato in tutto il mondo, una commedia musicale farsesca, davvero pazzesca sotto il profilo anche strettamente visivo. Poi seguirono film di grande impatto, soprattutto appunto festivaliero, come Ho affittato un killer, Vita da bohème, e ancora più recentemente Da nuvole in viaggio all'uomo senza passato, all'ultimo Le luci della sera, che era appunto del 2006, quindi 5 anni fa. 5 anni dopo Akiharu Ishimaki torna a raccontare i suoi personaggi. Il cinema di Akiharu Ishimaki è profondamente marchiato sin dal primo fotogramma, lo si capisce subito, ma è il film di un grande maestro, perché ha una sua originalità di messa in scena che non tradisce praticamente mai, anzi che migliora col tempo. Qui siamo per esempio di fronte a una fotografia in questo miracolo alle Havre davvero straordinaria. L'idea era quella di concentrarsi su uno solo, ma il più realizzabile, come ha detto più volte Akiharu Ishimaki, dei tre precetti del motto della democrazia francese: liberté, égalité, fraternité. Allora, dice Akiharu Ishimaki, se per libertà e égalité si può fare poco, sono forse un po' troppo utopistici, per fraternité possiamo fare tutti qualcosa nel nostro quotidiano. Ed è questa fratellanza, quella che c'è fra gli abitanti del Borgo dei Pescatori di Le Havre e quella che c'è fra il protagonista Marcel e il ragazzino, il motore di questo film, che è un film che racconta, come dice il titolo italiano, perché il titolo originale è semplicemente Le Havre, ma questo miracolo a Le Havre racconta che effettivamente qualcosa succede, ed è succede nel momento in cui il protagonista si trova a dover affrontare la malattia della moglie da una parte, lo fa gettandosi anima e corpo, donandosi totalmente invece alla risoluzione della causa del ragazzino. Questo dono, questo sacrificio avrà un suo bilanciamento che chiaramente noi non vi sveliamo. Vi sveliamo invece che è un film assolutamente da non perdere, questo Miracolo alle Havre, uno dei più belli usciti dall'inizio di questa stagione. Ebbene, questo per quanto concerne il film di Akiharu Ishimaki. Noi a questo punto giochiamo insieme con il nostro game e vi facciamo ascoltare la prima delle tre tracce del film misterioso di questa settimana. Sei stanco? No, io non mi stanco mai. Stamattina lo eri. Facevo finta. Mi dai del bugiardo? No, non voglio fare botte. Hai paura? La Rosa Purpura è @radio24.it. Due bambini che giocano. In quale film? Diteci in quale film per provare a vincere il Blu-ray di questa edizione, di questo film che vi sveleremo la prossima settimana. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Oh, andiamo alla commedia italiana, il film da botteghino di questo weekend, visto considerato che il botteghino è dominato ogni fine settimana da qualcuno che arriva e fa razzie vere e proprie. La settimana scorsa è stato ovviamente il caso di The Twilight Saga Breaking Dawn, che ha portato a casa 9 milioni di euro fino al fine settimana, ma è stato il caso precedentemente dei Soliti Idioti, eccetera. Questa volta possiamo dire con tranquillità che ci aspettiamo lo stesso risultato più o meno da Anche se amore non si vede, il film che segna il ritorno al cinema di Ficarra e Picone. Ovviamente si ride, ovviamente commedia che ha quel obiettivo e non altro, ma commedia che viene distribuita tra l'altro in maniera piuttosto massiccia dalla Medusa, oltre 500 copie in tutta Italia, per raccontare la storia di Salvo e Valentino, due amici che insieme gestiscono una piccola società di quelle che portano in giro i turisti, in questo caso per Torino, su dei pullman scoperti. Ma è solo un pretesto. Cominciamo a sentire una clip. Amore! Quindi ti stai tirando indietro? Gisella, non mi sono mai fatta avanti, ma come te lo devo dire io? Va benissimo. Allora vorrà dire che quando torno glielo dico io. Brava. E mentre starà lì a soffrire come un cane, gli dirò anche che il suo miglior amico poteva aiutarlo e non l'ha fatto. Gisella, io non lo volevo come miglior amico. Io già alle scuole elementari volevo un altro come miglior amico. Poi quello è diventato miglior amico di un altro, ma mi è rimasto lui. E allora avete sentito Salvo e Valentino. Salvo, intraprendente, sfacciato. Valentino, assolutamente sdolcinato con la sua fidanzata, che è Ambra Angiolini, che non ne può più perché continua a regalargli tutti i giorni cose a forma di cuore. La casa si è trasformata in una sorta di mausoleo, e allora parte la commedia degli equivoci, quella che appunto viene definita nell'America dell'età d'oro la screwball comedy, ovvero equivoci: chi sta con chi tradisce chi ha visto uno che stava con un altro ma era poi vero. Insomma, attorno a questo tormentone parte una raffica vera e propria, con un ritmo sostenutissimo di battute, situazioni, mai volgari, sempre molto divertenti e anche molto ben recitate, perché in alcuni ruoli, soprattutto quelli femminili, in questo film hanno bisogno di un sostegno di recitazione che non è banale, a partire da quello di Ambrangiolini, ma anche quello di Saska Zacharias. E allora si ride per un'ora e mezza, happy end forse anche un po' troppo esagerato, il film ci mette un attimo a carburare, però alla fine si esce tutto sommato soddisfatti, se quello che ci si aspettava era appunto più di una sana risata. E allora andiamo a sentire le parole, le voci e, come sempre, ovviamente le battute di Ficarra e Picone. Eccoci qua. Allora, Ficarra e Picone, un film che, tanto per cominciare a metterla subito sul serio, definirei una screwball comedy, come dicono quelli che se ne intendono. Una screwball? Sì. No? Abbiamo fatto una screwball comedy, ma tu volevi fare una screwball comedy? Di la verità! Ci sono stati momenti in cui ho voluto farla. Hai fatto la screwball comedy. Però se è venuta fuori mi è scappata, non l'ho voluta. Ci scusiamo per la screwball. Non si fanno le screwball. Ma è così all'insaputa degli altri. Posso chiedere una cosa? Che cos'è la screwball? No, ma questo noi siamo registi, siamo autori del film, siamo interpreti e gli fai la figura che gli domandi che non sai cos'è screwball. Vabbè, ma se me lo puoi dire. Diciamo la verità, quante volte hai regalato a una ragazza una cosa a forma di cuore? Ma credo di averlo fatto, però l'ho rimosso, perché un uomo che... ci sono questi regalini che... alle donne piace, però, attenzione, alle donne piace che ci siano i regalini. Sì, ma che tu esageri, non va, tu nel film esageri. Nel film esagero tanto, tanto diciamo. Sentite, come registi, quarto film, la vostra crescita da cosa viene aiutata? Cioè, con cosa vi cibate, su cosa lavorate? Per, come dire, implementare la vostra capacità autoriale di registi. La palestra fondamentale è il teatro. In teatro ogni sera fai un film di un'ora e mezza, per cui avere il ritmo, avere insomma la percezione della gente, l'incontro dal vivo è la cosa principale, che poi ti aiuta anche quando fai il regista, quando fai il film, quando vuoi scrivere un film. Poi nella scrittura, da sempre abbiamo scritto il film con Francesco Bruni, che è uno dei più bravi sceneggiatori italiani, con Fabrizio Testini anche questa volta, quindi già nella sceneggiatura c'è la regia, già noi nel momento in cui scriviamo la sceneggiatura con lui già ci immaginiamo la regia, ci immaginiamo come vorremmo, diciamo, il tono del film, i personaggi, come ce li immaginiamo, dove si muovono, cosa succede. Guardate dell'altro cinema al cui, non dico ispirarvi, insomma da cui trarre qualche cosa. Assolutamente sì, noi proprio siamo dei grandi fruitori di cinema, guardiamo moltissimo i film italiani, insomma di altri amici, cioè, colleghi, ma da Fellini. Per noi sì, Fellini non, per basta Fellini, Tarantino, Quentin Tarantino per noi ogni volta che ci sentiamo con Quentin Tarantino abbiamo l'imbarazzo, perché lui ci dice: ma io devo girare questa scena, voi come la fareste? La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Un altro film, un'altra novità in sala in questo fine settimana che vogliamo consigliarvi, perché nella dimensione, nel target del family, diciamo così, è sicuramente la proposta più interessante per mettere insieme la famiglia al cinema. Stiamo parlando di Real Steel, è un film targato Disney che arriva nelle sale cinematografiche italiane, firmato da Sean Levy con un grande nome da locandina come quello di Hugh Jackman, con un cast ricco e variegato, ed è un film che si inserisce perfettamente nella saga, diciamo così, nel canale, nel solco Disney dei film dedicati a qualcosa che stia fra i videogiochi, il family movie, l'epopea sportiva. Pensate per esempio a Tron, mi viene in mente un titolo, ma in questo caso parliamo invece di Real Steel, vero acciaio, questo la traduzione del titolo. Allora, Real Steel racconta un futuro veramente vicino, ci siamo fra 10 anni grosso modo, dove il pugilato non si combatte più a livello umano, ma a combatterlo sono dei robot manovrati dai loro padroni, dai loro tecnici. In questo caso Hugh Jackman è un ex pugile vero, in carne e ossa, che è dovuto passare a questo aspetto, diciamo così, del pugilato robotico, e che gestisce insieme alla sua amata una vecchia palestra. Ecco qui il legame col passato, il legame con anche un po' di nostalgia, una vecchia palestra nella quale però i due si arrabattano un po' e bisogna cercare di fare qualche soldo, non di buttarne via con i robot, sarebbe la filosofia della ragazza, per cercare di tirarla su. Sentiamo la clip. Charlie, c'è uno con i soldi veri? che vuole comprare la palestra. Smettila, è la palestra di tuo padre e la vuoi vendere. Se non paghi l'affitto, io non pago le rate del mutuo e non avrò più scelta. Tuo padre esce dalla tomba e ti prende a calci in culo se vendi la palestra. No, mio padre esce dalla tomba e prende te a calci in culo. Insomma, per tirarsi fuori bisogna trovare un modo, e l'unico modo che conosce il protagonista è quello appunto di far combattere un robot, ma i suoi robot evidentemente non sono abbastanza forti e quindi vengono regolarmente distrutti con causa di danni economici. Il tutto cambia quando nel menage piuttosto tribolato dei due arriva un bambino. Questo bambino è il figlio del protagonista, appunto di Hugh Jackman. Questo bambino è un figlio quasi dimenticato, sicuramente lontano, ma adesso la mamma è morta e quindi se lo deve smazzare lui prima che venga affidato alla cognata. Quindi un'estate insieme a suo figlio, e che questo è un ingrediente abbastanza classico del cinema recente, del family movie, scoprirsi, lo abbiamo visto anche la settimana scorsa nel cinema italiano con Scialla, scoprirsi in età già comunque abbastanza avanzata, capirsi, magari anche rifiutarsi per poi alla fine amarsi. Questa è un po' la parabola che succede anche in questo caso. Il bambino è tosto, è uno di quelli che non vorrebbe stare lì, diciamo così, a giocare coi videogame, ma vorrebbe giocare coi robot, manovrarli, andare in giro col padre per le strade dell'America, sul camion, nelle fiere di paese dove questi combattimenti fra robot avvengono. Ebbene, il ragazzo ce la farà dopo aver quasi rischiato la vita in una discarica per ex pugili robot e dopo aver trovato un robot che ha letteralmente tirato fuori dalle unghie, dalla sabbia dalla quale era sepolto. Che stiamo cercando? Qualcosa per mettere insieme un robot da combattimento. C'è un robot intero. Non ho mai visto niente di simile. Combatterà? È un robot da allenamento, è fatto per prenderle senza mai darle veramente. Si chiama Atom. Fallo combattere. Insomma, avrete già capito che questo rottame che è stato ricavato da una discarica ovviamente farà la sua strada, inutile che ve lo stia a dire, siamo appunto in un family disneyano. Real Steel convince alla fine, pur fra i mille esagerazioni, fra le mille sdolcinatezze gratuite, fra le citazioni che vanno da Rocky a Over the Top, dal gigante di ferro, eccetera, insomma, è comunque un film che trova una sua via, un suo equilibrio, è un film sincero perché è un film dichiarato, si capisce che cosa ti stanno raccontando e a chi lo vogliono raccontare, ed è un film che in certi momenti addirittura commuove perché ha comunque la capacità di creare umanità in questi robottoni che si menano come dei pazzi, si disfano a ogni combattimento, quasi più come una propaggine di un videogame che come la propaggine di un boxer in carne e ossa. E quindi una Real Steel che garantisce un intrattenimento familiare pomeridiano sicuramente di buon livello. E allora adesso noi giochiamo ancora insieme, perché è arrivato il momento di sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. La natura vuole solo compiacere se stessa. Benedice il Signore. E spinge gli altri a compiacerla. Li adoriamo con fede e con amore. Le piace dominare. Benedice questi ragazzi. Le piace fare a modo suo. Beh, adesso l'ingresso in campo in questa traccia della natura chiaramente ci dà forse qualche appoggio in più per indovinare di che film si tratta e provare a vincere il DVD o il Blu-ray di questo film. Più tardi, l'ultima possibilità. E proseguiamo parlando di un festival, parlando di un grande regista che è anche direttore di questo festival. Avete capito, stiamo parlando del Torino Film Festival, che è cominciato da poche ore ormai a Torino e che è diretto ancora una volta da Gianni Ameglio, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpure, che ringrazio per aver risposto al nostro invito. Ciao Gianni, come va? Bene, bene, bene, bene. Un po' di tensione, ma bene, tensione buona, diciamo, insomma, quella che c'è in tutti gli inizi, no? Beh, insomma, è anche normale che ci sia, se non ci fosse sarebbe già addormentato il festival, mentre invece è molto sveglio quest'anno. Beh, Torino è un festival che ci ha abituato ad essere sveglio, diciamo così, non è senz'altro un festival che si siede. Quest'anno, tra l'altro, anticipato da alcune stucchevoli polemiche sul senso del fatto di avere delle star o non averle in un festival come Torino. Insomma, ho visto che tu te la sei cavata molto bene e fregandote sostanzialmente facendo arrivare nel red carpet della serata inaugurale gente come nomi come Penelope Cruz oppure Charlo Trampling, ecco, tanto per non sbagliare, giusto? Sarà anche, secondo me, quella che è la cosa giusta, cioè gli ospiti saranno le truppe che stanno lavorando a Torino. Mi pare un dovere, mi pare fare gli onori di casa, insomma, no? Cioè, mi sembrerebbe sgarbato privilegiare qualcuno rispetto a un altro. La troupe che lavora è comunque qualcuno che ama la tua città, no? Che lavora nella tua città. Adesso ci sono tre troupe che fanno tre film molto rispettabili a Torino e io ho preferito invitarli tutti, senza distinzioni, cioè non ne faccio una questione di divismo, ne faccio una questione di interesse alla qualità. Ti chiedo invece una cosa sui film e su un paio di momenti importanti del festival, perché tu sei riuscito in extremis ad avere nell'anteprima mondiale, se non sbaglio, il nuovo film di Coppola, insomma questa sì. È già una cosa di cui ti voglio chiedere qualcosa, insomma. È l'assoluta anteprima mondiale, perché il film è passato in due proiezioni a Toronto, come del resto è passato anche il mio ultimo film, che poi spero di far vedere a Torino verso la metà di febbraio. Coppola, per le ragioni che sappiamo, cioè per i legami che abbiamo stabilito con lui, ci ha dato il film senza nessuna esitazione. E poi è un Coppola speciale, un Coppola che ritorna alle origini, è un Coppola molto particolare, un film che sembra un piccolo film, ma in realtà è un film narrativamente molto forte, il pubblico si divertirà enormemente, è un film di genere. Posso anticipare che, forse non so se il termine lo contiene tutto, però è un horror, ecco, e sappiamo che Coppola ha fatto degli horror agli inizi della sua carriera, vabbè, poi ha fatto Dracula, eccetera, però questo è davvero un film di un ragazzo. L'altra cosa, Gianni, che come sempre quando Torino fa le retrospettive, sono retrospettive complete al millimetro, in questo caso di un gigante come Robert Altman. E siamo stati costretti a dividerlo in due, vale a dire la parte televisiva andrà in misura abbastanza consistente al museo, perché non avevamo proprio posto, avremmo dovuto dedicare tutti i programmi ad Altman. Altman ha fatto quasi, potrei dire, centinaia di cose televisive per una decina di anni, prima poi di debuttare e anche dopo che aveva debuttato sul grande schermo. Ha fatto Bonanze, ha fatto telefilm della serie Hitchcock Presenta, la retrospettiva è venuta talmente bene che la esportiamo nel posto più sofisticato d'Europa, cioè la Cinémathèque Française. Ce l'hanno chiesta loro. Loro non erano riusciti a fare quello che abbiamo fatto noi. E sto parlando della Cinémathèque, dove si sono formati Godard, Truffaut e compagnia bella. Insomma, quindi questo è veramente il primo grosso riconoscimento che ci è arrivato prima ancora che il festival cominciasse. Insomma, mi sembra una bella soddisfazione, anche questa, insomma. Ecco. E poi una cosa che vorrei dire, che ci tengo a dire, è che il programma di quest'anno va sulla linea di quello dei due anni precedenti miei, però in qualche modo cercando delle novità, cercando di proseguire andando avanti. Quindi è un programma vario che dovrebbe forse interessare un po' il pubblico largo, il pubblico grosso, il pubblico che va al cinema anche perché si emoziona a stare in sala con altri spettatori e vuole seguire una storia, vuole avere un'emozione. Io credo che il cosiddetto, tra virgolette, film da festival abbia un po' fatto il suo tempo, no? Come genere, perché qualche volta lo si è inteso quasi come un genere, il film che io ritengo importante ma che non deve nutrire da solo una rassegna, perché altrimenti questa rassegna si suicida. Gianni, grazie per essere stato con noi, insomma in bocca al lupo per questi 8 giorni di grande cinema, grazie. A Torino, e insomma, e poi chiaramente ci risentiamo per il tuo nuovo film quando volete. A presto. Ciao. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpurea. Andiamo a casa, nel senso che andiamo a vedere un po' di film sul nostro piccolo grande schermo, e lo facciamo come sempre partendo da quello che la televisione proporrà nella prossima settimana, per vedere se c'è qualche salvataggio, qualche registrazione notturna o mattutina da effettuare. Lo facciamo con gli amici del settimanale Film TV che sono già in collegamento con noi. Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Grazie. Allora, partiamo subito dal concept di questa settimana: due doppiette, cioè due film molto molto diversi, di due registi altrettanto diversi ma molto importanti, ognuno nel suo. Cominciamo con Johnny To. Esattamente, martedì 29 novembre su Rai 4, due film di Johnny To: il primo alle 21.10 Breaking News, il secondo alle 22.50 Hero Never Dies. Due film del regista cinese tra i maggiori e più prolifici autori e produttori del cinema di Hong Kong. Due film che mettono in luce lo straordinario talento registico di Johnny To, un regista che è interessato al cinema, diciamo, come arte grafica, creare senso tramite il movimento, le coreografie dei corpi, delle pallottole che percorrono il mondo della criminalità e tramite il balletto della sua macchina da presa. I suoi personaggi criminali si rivelano portatori sempre di valori antichi, di un'etica propria, come a richiamare quelli dei maestri Jean-Pierre Melville e Sam Peckinpah. E questo allora per quanto riguarda Johnny To e i suoi due film anche per un maestro invece assoluto del cinema europeo come Krzysztof Kieślowski. Esattamente, mercoledì 30 novembre su Rai Movie, alle 23.25 Film Rosso e all'1.05 La doppia vita di Veronica. Due tra i più bei film di Kieślowski, un cineasta sempre interessato ai movimenti del destino e alla messa in scena dei meccanismi del caso. Si inizia quindi con Film Rosso, che è la parte finale di una trilogia, i cui titoli si basano sui colori della bandiera francese e i valori di libertà, uguaglianza e fraternità. Qui Kieślowski, con un film affascinante ed enigmatico, pone questioni sulla comunicazione tra gli esseri umani. La doppia vita di Veronica, invece, un'opera precedente, Kieślowski mette in scena attraverso la vita parallela di due donne vicine e lontane il mistero del destino, secondo modalità che verranno riprese un attimo banalizzate da un film come Sliding Doors. Per quello che conta, insomma, uno dei cinque film della vita di chi vi parla, la doppia vita di Veronica, davvero straordinario. Allora, grazie a Giulio San Giorgio, agli amici del settimanale Film TV e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, questo per quanto concerne allora il meglio del cinema da vedere o registrare in televisione la prossima settimana. Noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del game di oggi, sentiamo. Vostro padre è andato in tutto il mondo, fino in Cina. Panam Airlines. Vostro padre ha volato con loro. Hanno i bagni tutti d'acciaio inossidabile, perfino il lavandino. Tra l'altro, fare un game su questo film e trovare dialoghi in questo film non è stato facilissimo ed è sempre un po' fuorviante perché i dialoghi non sono importanti come quello che si vede in questo straordinario capolavoro. La Rosa Purpurea, @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. E se invece vi state chiedendo con quale film avessimo giocato 7 giorni fa, vi faccio ascoltare una clip. Quando l'esercito di Garibaldi si sciolse, si poteva scegliere, o ritornare a casa, o restare nelle armate reali. Lui, io, come tanti altri, abbiamo deciso di entrare nell'esercito vero. Con quelli lì non si poteva stare. Ce l'hanno detto in molti, ma è troppo facile il Gattopardo. Sì, era il Gattopardo che noi abbiamo voluto ritirare fuori perché sta arrivando in una nuova, lussuosissima edizione. Adesso ne parliamo con Claudio Poffi. Prima i vincitori sono stati Enzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e Massimiliano Raponi di Ascoli Piceno. Saranno loro a ricevere questa splendida edizione in Blu-ray del Gattopardo più libro, di cui ci parla subito il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il Colossal di Visconti ha recentemente beneficiato di un nuovo restauro a cura della Film Foundation di Scorsese, la Cineteca di Bologna e il Laboratorio dell'Immagine Ritrovata. Parliamo di oltre 10.000 ore di lavoro che hanno portato a questo nuovo master, una versione rinnovata DVD e Blu-ray, sono entrambe di notevole resa. Noi sicuramente consigliamo quella Blu-ray per avvantaggiarsi, insomma, dell'alta definizione e godere della splendida fotografia del maestro Rotunno. Sono entrambe edizioni che offrono importanti extra con focus sulla produzione, l'importante restauro del 91, un'intervista al produttore Goffredo Lombardo, ma c'è su tutti sicuramente veramente interessantissimo, l'inedito film documentario di Tornatore che si intitola L'ultimo Gattopardo, dedicato alla Titanus, a Goffredo Lombardo e al Gattopardo, con quale il produttore rischiò la bancarotta. E beh, insomma, film assolutamente memorabile, pietra miliare del cinema italiano, Il Gattopardo. Noi andiamo avanti invece con le recensioni. 1983, David Cronenberg si afferma a livello mondiale con un film che si intitola Videodrome. E vanno avanti così per più di un'ora. Ma come vanno avanti? Te l'ho detto. Torture, omicidi, mutilazioni. E non si vede che questo? Già. Negli anni Ottanta, in pieno boom americano delle TV private via cavo, troviamo Max Wren, proprietario di un piccolo canale noto per la programmazione legata a pornografia, softcore e violenza. Max è disposto, come tutti, a qualsiasi cosa pur di guadagnare audience, occasione che giunge grazie alla scoperta di un presunto canale satellite pirata chiamato Videodrome, in cui vengono mostrate torture e violenze senza limiti. Ma Max successivamente farà la terribile scoperta che Videodrome è capace di provocare alterazioni della realtà, rimanendone coinvolto fisicamente e mentalmente. Il Blu-ray arriva da Universal, è un notevole salto di qualità rispetto al DVD, specie per la parte video, c'è l'audio DTS mono in italiano e quella ad alta risoluzione stereo in inglese, purtroppo non sono presenti extra, ricordo che è disponibile in America un'edizione con supplementi. Tempi più recenti per un film che ha risolto un enigma: quanto pesa l'anima umana? 21 grammi. Chiedi perdono a Dio, inginocchiati e prega! Chiedere perdono? Io ho fatto tutto quello che lui mi ha chiesto, gli ho donato la vita! Sono cambiato per lui e lui invece mi ha tradito. Nella Middle America contemporanea, un ex malavitoso, mentre torna a casa in auto, investe e uccide un padre con le sue due bambine. Nonostante la straziante sofferenza, la vedova concederà il dono del cuore del marito. Il felice beneficiario di questo dono è Paul, che rinasce una seconda volta, si allontanerà dalla moglie per andare alla ricerca della donna che quel suo nuovo cuore aveva amato fino a un istante prima dell'incidente. Film denso, intenso, che scava nell'animo umano, trattando vari argomenti, tra fanatismo religioso, vendetta, giustizia, moralità. Il peso non solo della vita, ma anche inteso nel senso di quei 21 grammi che pare siano proprio il peso dell'anima che si perdono al momento della morte. La regia del messicano Alejandro González Iñárritu, già realizzatore di sensibili opere come Babel e Beautiful, eccellente il Blu-ray da BIM con doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, molto interessante il documentario sulla realizzazione. Ebbene, grazie allora a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana per le segnalazioni in Blu-ray e DVD. Ciao, a presto! E allora abbiamo finito la nostra puntata, abbiamo finito il nostro tempo, l'appuntamento va la prossima settimana, sabato alle 18, domenica alle 15, qui alla Rosa Purpurea, su tutti, un nome e un titolo, Midnight in Paris di Woody Allen, che arriva nelle sale italiane. Un saluto da Franco D'Assisti.